Stomos. Allora, prego, Mindo. Stati alterati di coscienza e emanano un brumidio di voci coinvolte. Noi ricordiamo che Blastomos, quindi domani 26 dicembre qui a Bologna, al Cassero, alle ore 23, quindi ragazzi mi raccomando, non se mi ricordo niente, domani sera al Cassero a vedere Blastomos, come si chiama, il loro, come avete detto, la loro arte a 360 gradi, che racchiude anche esperienze.